Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Non mi piace che tu vada in giro a importunare i nostri cittadini col tuo cognome da mezza sega, con la tua faccia da mezza sega, con i tuoi modi da mezza sega, e non mi piaci tu, mezza sega. Tu che sei innocente, tu che non hai fatto niente, tu che ti lamenti perché ti hanno imbrogliato, allora adesso senti, tu andrai in prigione, in prigione, in prigione. Certo, le dimissioni di un ministro poi in queste condizioni, in questo contesto, non fanno mai bene al governo, però mi pare che la cosa da dire questa sera, così a caldo, sia che le dimissioni della ministra Guidi sono una scelta giusta e a mio avviso anche necessaria. Ti senti sfortunato, ti senti perseguitato, offeso, amareggiato, allora in prigione, in prigione. Il ministro Guidi si deve immediatamente dimettere perché ha fatto pressioni al Parlamento affinché passasse una norma, una legge per favorire l'azienda del suo compagno. Questo è l'ennesimo conflitto di interessi del governo. Prima la Boschi con le banche e ora pure il ministro Guidi. È inaccettabile. Mi guardo attorno e in questi mesi vedo un po' troppo familismo, vedo un eccesso, una concentrazione di potere concentrata in poche mani, e questo non va bene. E da questo punto di vista l'episodio di oggi è significativo perché dice qualcosa sul modo di concepire il potere anche da parte del Presidente del Consiglio. E allora, cari italiani, ci svegliamo con un ministro in meno al governo, Federica Guidi, che si deve dimettere, così in un lampo si dimette. Una telefonata. Licenziato! Il nostro Oscar Giannino. Allora, questa telefonata che costa cara, intercettata, nella quale tranquillizza il fidanzato per un emendamento che stava per passare, e che avrebbe favorito un'azienda del fidanzato, e dunque Federica Guidi si dimette. Oh, in un lampo, pare che Renzi, così racconta Repubblica, abbia detto: mi è capitata sta cosa tra i piedi, tutto stava andando abbastanza bene lì a Boston, in America, stava per andare da Obama a parlare anche di energia, a parlare di... Pom! Mazzata, però risolta subito, eh. L'ordine di Renzi è stato questo: deve dimettersi entro il TG delle 20. Entro il TG delle 20. Guardate che la comunicazione è tutto, per lo storyteller. È tutto, e quindi entro il TG delle 20 doveva, basta, via. Risolta la questione, non se ne parli più. Anche perché stava per, non dico travolgere, ma comunque coinvolgere anche il ministro Boschi, perché l'ex ministro Guidi, intercettata, dice: in questo emendamento è d'accordo anche Maria Elena, anzi Maria Ele la chiama così. E quindi, insomma, una piccola grande grana che Renzi ha voluto risolvere così subito. D'altronde, se non fai parte del giglio magico, via, via, via. E va bene, ci svegliamo con venerdì, caro Peter Bescapè, venerdì sei felice? Lavori domani? Vabbè, sono cose che capitano. In prigione, in prigione, sì, anche tu in prigione. In prigione, in prigione. Noi ci dobbiamo subire, Milan che ti rompe le palle 6 mesi prima quando vai in ferie, 6 mesi dopo quando torna indietro, sospira e piange, ci dice che si alza al mattino regolarmente, come io ho 30 anni che mi alzo alle 5 del mattino. Finirò in prigione, che devo dire, caro ascoltatore. Allora, 349-238-6666 è il numero per i vostri messaggi, i vostri WhatsApp, i vostri commenti. Diteci dove siete, cosa fate. Eccolo qua, anche oggi Giorgio e Marco, Fornai di Ravarino, sono presenti. Che fate adesso? Vi incontrate Giorgio e Marco e fate un franchising? Non lo so, cosa fate? Giorgio e Marco. Fornai di Ravarino, ricordate che dovete farci la pagnotta rossa, eh? Il primo che fa la pagnotta rossa per la nostra rossa Paola Saluzzi e mi manda una foto, dipingetela anche con dei coloranti immangiabili, chi se ne frega, però fate, vincete questa sfida. Con la cipolla, con la barbabietola, non lo so, fate con la carota, fate una pagnotta in qualche modo. No, carota e arancione, eh? Dovete fare una bella pagnotta rossa. Col peperoncino, non lo so, con l'anduia. Dai, forza, forza, vi ho dato un po' di idee. Allora, è venerdì anche per Peter Vescapè, anche se domani è sabato e lui lavora. È venerdì per Lorenzo Nespoli. Attenzione, Lorenzo Nespoli che se ne va poi una settimana in ferie, incredibile. Oggi aveva un sorriso appena arrivato perché era l'ultimo giorno di sveglia per un po' alle 5. Ma, vediamo se le ferie sono confermate, eh. Oggi ti faremo sapere nel pomeriggio, nel tardo pomeriggio, quando avrai la valigia quasi chiusa. Allora, devo subito salutare Vincino, il nostro amico Vincenzino. Vincino, come stai? Bene. Tutto a posto, dove stai? Tutto a posto, no, sto a Roma. Svegliato per te. Vabbè, ma non dirlo così, dai, su. Ieri abbiamo preso un accordo, hai detto sì, lo faccio, sì, e sì, adesso sì, non farmela sì. pesare. No, che poi no, gli ascoltatori, vedi, si arrabbiano, dicono: ah, adesso inizia anche questo a dire che si sveglia alle 6:30. Io ho una vita che non rompo i maroni e mi sveglio alle 6:30. Ho capito, e siamo qua al telefono a fare reati telefonici e quindi in questa repubblica telefonica è insopportabile. Uno dice due cose al suo madonna mia, subito. Vabbè, ma ho capito, però non è che puoi dire. Ma che ha fatto di grave, dai, come dire. Ma non lo so cosa ha fatto di grave, adesso si vedrà. L'emendamento era giusto e sbagliato, questo non si è capito. L'emendamento era giusto e sbagliato. Se era giusto non ha fatto niente di male, dai. Se era sbagliato sì, ma se era giusto, come dire, ma Temparro era il premier, dice io ho sempre difeso Temparrossa, non so che cos'è, non l'avevo Tempa mai vista. Temparrossa, no, non lo so. No, Tu odi questa Repubblica, tanto che mi hai mandato subito, hai mandato la vignetta, a chi dobbiamo affidare l'anti-intercettazione? A Cantone, naturalmente. A Cantone. Temparrossa a Cantone, tutto a Cantone. Facciamo il ministero della. Cioè, quella era una ministra bravissima. Facciamo il ministero del tutto. Cantone, Raffaele Cantone. Esatto. Ministero del tutto. Ma l'Italia è affidata a un magistrato, come dire, il magistrato ferisce, il magistrato non è che... Vabbè. Comunque, no, adesso ne parliamo. Dai, intanto tu sei a Roma insieme a Chiara Geloni. A fare che? Stupendo. Non siamo proprio insieme però, siamo a Roma entrambi, ecco. Vicini, però. Siete vicini? Vicini. Ma una notte si potrebbe fare, invito gli ospiti e sono obbligati a passare la notte insieme in modo che non poi c'è... raccontano la loro esperienza. Questo non lo so, così non c'è rischio, facciamo una telefonata, risparmiamo peraltro, e risparmiamo e vi passate la cornetta, eccetera. Vabbè, dai. Allora, insieme a Chiara Geloni, siete a Roma, dove Ignazio Marino non si candida, eh? No. Grande, cioè, i romani attendevano. Insomma, dai, un po' di curiosità c'era. Un po' di curiosità, dai, apriamo il Parlamento, va, che c'era la curiosità. C'era la curiosità. Adesso vado a prendere un caffè. Non si candida. Ah, attenzione, oggi devo fare un'intemerata. Un intemerato ritorno sulla questione delle multe, eh? Voi siete di Roma, com'è il problema multe a Roma? Non so, io non ho la macchina. Tu non hai la macchina, benissimo. Vincino, com'è il problema multe a Roma? Che arrivano una volta ogni settimana, ogni qualche giorno. No, perché qui è terribile a Milano. Ieri ho preso ancora una multa per divieto di sosta sotto casa. D'altronde non ho il garage. Grazie a quelli che mi dicono comprati un garage. Io rispondo sempre grazie, compramelo tu, grazie. Compramelo tu, grazie. Se mi fai una donazione come magari al Cardinal Bertone a mia insaputa, mi compri un bel garage, io sono felice. E devo parcheggiare spesso in divieto di sosta perché a Milano, e ogni giorno mi becco una multa, anche ieri una multa. Fai due passi a piedi, posteggia, no, non lo so. Due passi a piedi, ma alle 5 del mattino, cioè, d'accordo. Vabbè, ma ci arriviamo tra poco, perché ci arriviamo alle multe, ci arriviamo alla questione delle bollette, ce n'è una da farvi sentire spettacolare. Però vabbè, dai, parliamo di questo caso Guidi, non lo so, si è dimesso. Chiara Gironi, hai sentito Vincino, dice basta queste intercettazioni. Che tu un po' godi, Chiaretta, di la verità. No, io non godo assolutamente. Qualsiasi cosa mette... mettono una certa tristezza. Ma perché? Però io voglio dire che la ministra si debba dimettere dopo un'intercettazione così è un fatto che non riguarda l'inchiesta, riguarda una questione di opportunità politica. Del resto basta prendere le dichiarazioni che fecero Renzi e Renzi stesso, insomma, in altre occasioni simili. Non c'è molto da discutere, infatti non c'è stato molto da discutere. Non c'è stato molto da discutere. La scelta di fare ministro dell'industria una imprenditrice era una scelta non obbligata, perché la Guidi non è un leader politico, non è il capo di un gruppo parlamentare che vota la fiducia al governo. Non è neanche sinceramente vietato, tu dici, come? Non è neanche vietato, però. Non è vietato, ma per esempio qualcuno... Quando Renzi ha annunciato questo nome, ha pensato: ma non avrà il conflitto di interessi? Ah, ecco, e tu dici. Insomma, capito, Vincino, il conflitto di interessi. È un'Italia. Ma è una leader, la Guidi è una leader, è la leader dei giovani industriali, è una leader dell'Italia. Non ho capito, cioè, non è una leader politica, che vuol dire? Cioè i ministri sono leader politici, Vincino, ma dai, è insopportabile questo. Vincino è arrivato a una certa età, non ne può più della politica, vecchio stampo, sto dicendo un'altra cosa, sto dicendo che la scelta di fare ministro dell'industria una ex leader di Confindustria era una scelta non obbligata, siccome Renzi spesso dice ma io devo fare queste cose perché dice non è obbligata e poteva comportare, secondo te? Secondo me è stata una scelta un po' rischiosa dall'inizio. Va bene, poteva perché comportare anche questo. Senza mettere in dubbio l'onestà di nessuno e anche senza intercettazioni, il rischio che una che ha dei grossi interessi in alcuni settori, un fidanzato che anche lui ne ha altri, una famiglia di un certo tipo, ha una figlia con quel signore, quale dopo? Non è che l'ha trovato, come dire, fidanzato. Però è singolare, cioè che in 4 e 48 si è dimessa, cioè è singolare questa, la telefonata si è dimessa, ci sono altri casi, certo che l'ha fatta dimettere, proprio la telefonata è stata entro il TG delle 20 peraltro. Allora, questa Italia sotto scopa di telefonata, perché in tutta Italia siamo tutti intercettati, miliardi di intercettazioni, a quando gli serve un magistrato, esce fuori il pacco, il libro di intercettazioni tuo, di Chiara Gironi, e sei fregata, perché a telefono ha detto 3.000 stronzate che sono interpretate in un modo Chiaretta, o in un altro. Chiaretta, sta attenta, che tu lo so che al telefono dici delle cose inopportune. Vabbè, però adesso questo può anche essere un discorso giusto, l'ha fatto Berlusconi, ma può essere giusto. Ma ha ragione Berlusconi in questo caso. Non è che allora uno può fare quello che gli pare e poi se lo beccano dice no, ma perché voi ne ascoltate le telefonate? Chi lo becca? Ma che legge è che è beccato da un'intercettazione che un magistrato o che un avvocato passa alla stampa? È insopportabile. È arrabbiato. Intanto scusate, vi devo mettere d'accordo. Tutti sotto scopa di telefonata. Vi devo mettere d'accordo. Intanto grazie all'ascoltatore che dice: se vieni a Merate ti offro io il parcheggio. Stai a 40 km da Milano, è comodo venire tutte le mattine a prendere la macchina lì da te. Grazie, meratese, grazie. Vi metto tutti d'accordo con Brunetta, vero Vincino? Vero che ti metto d'accordo con Brunetta? No, quello è un altro disgraziato, dai, quando non gli serve a lui, cioè, siccome è contro il governo e via, da incarica, come dire, poi difatti... No, perché Brunetta è una questione... No, prima di Brunetta devo dire questo, all'interno di questa vicenda, Guidi, ma c'è una figura, ragazzi, che è emersa, che è straordinaria. Dov'è Repubblica? Il sindaco di... Ma porcaccia la miseria! Il sindaco di Corleto Perticara. Caro Vincino, sei mai stato a Corleto Perticara? Come si? No. Ma chi cacchio stai dicendo? No, non lo so, sì, per dire interlocutivo. Un sì da scemo. Tu, Chiaretta, sei mai stata a Corleto Perticara? No. No, io dico un no intelligente. Allora, diceva così, è stata arrestata, Corleto Perticaro, no? È stata messa ai domiciliari. Giuseppina alla mensa della scuola, grazie, assumetemela. Nicola, Rocco, Carla, Rocchina, Immacolata, mi raccomando, assumetemi anche loro. Salvatore, me ne metti uno che tiene la terza media, ma è come fosse diplomato, è intelligente. Poi per il pane devi pigliare da De Angelis un fornaio qui vicino. Oh, il sindaco fa l'ufficio di collocamento. Questo è intercettato. È straordinario. E poi la colpa è di chi intercetta. È straordinario. Ma certamente, scusami, qual è il lavoro di... Allora, scusami, uno chi vincerà, la Meloni diventa sindaco di Roma, assumerà 2000 persone. Il sindaco di Roma porta 500.000 persone normalmente, no? Rosaria, cosa così, ma è così. Cioè, ma poi di che, scusi una cosa, gli emendamenti nascono lo Spirito Santo, nascono da soli, così, paf, a un certo punto nasce un emendamento. Ma di che cosa parlano i ministri? Parlano di tutto questo, All'inizio hai detto se l'emendamento è giusto non c'è nessun problema. Non so se l'emendamento è giusto, te lo dico io. L'emendamento ha detto Renzi che è giusto nel pezzo di Repubblica. Allora basta. Il governo condivide quell'emendamento. Per quello io dico che forse il problema è un pochino più grosso. Ci stava dei problemi anche per Maria Ele. Non ho capito se per te l'emendamento è giusto o sbagliato. Ma può essere giusto o sbagliato, ma il governo è autonomo nel prezzo. Nel dubbio parlare, ma è per mattina presto, non mi fare strillare. Esatto, dai, Vincino si è svegliato alle 4:30 già carico a pallettoni. Dico, se è giusto o sbagliato è un problema diverso. Il problema è il governo è autonomo nelle sue decisioni, con quali criteri le prende? Perché questo è il punto, è la politica energetica del governo, dove viene decisa, da chi, con quali metodi. A Corleto Perticara, viene dice, dove il sindaco Rosaria Vicino del Partito Democratico, arrestata appunto ai domiciliari, adesso dice anche al capo dei vigili, dopo aver preso la macchina per andare dal parrucchiere: io sono il sindaco, prendo la macchina e faccio quello che voglio, capito? Caro Vincino, capito? Per andare dal parrucchiere. Siamo abituati male questi politici. Dal parrucchiere. Comunque Brunetta, dicevamo, Brunetta invece ha un problema energetico molto molto serio. È arrivato una bolletta. Vuol dire, andiamo a vedere i problemi della gente. Le maxi bollette dell'energia, è toccato anche a me, è toccato anche a tutte. È arrivato anche a lei, professore, il bollettone? Assolutamente sì, mi è venuto un mezzo collasso, dati i tempi. Da quanto era? Da quanto e mi pare fosse 14.000 euro. Una bolletta della luce da 14.000 perché euro. 14.000. Casa, questo, giardino, illuminazione, giardino, così via. Certo. Fai presto. Fai presto! Ma come fai presto ad accumulare una bolletta da 14.000 euro? Cos'era Radio Cusano Campus? Straordinari sempre. Vincino, quanto ti arriva di bollette elettriche? Parecchio di meno, però per io la tua casetta. Suo cambierei coso, sai come si chiama? Il gestore. C'è un delinquente come gestore, penso. No, non lo so, dai, per quanto vuoi che sia, non è che avrà un latifondo del giardino, avrà un palazzo di... Guarda che fai in fretta, dici, il giardino, le robe, l'attico, il portico, la cantina, insomma tutti i riflettori dello stadio, il campo da baseball, il campo da tennis, accendi tutto, cara Chiara, a te quanto arriva di bolletta? È una 90 euro, 70 euro, dipende. Sì. 14.000. Però non ho il campo da tennis, effettivamente. 14.000, a Brunetta arriva, quanto aveva detto che pagava, tra l'altro di ICI, lui aveva detto che pagava 6.000, 3.000, non lo so, comunque 14.000 euro di bolletta della luce a Brunetta. Si è allargato un po' troppo, diciamo, Brunetta nell'ultimo periodo. Su questa va dal traffico, al traffico. Il primo premio va al traffico, con il pelo lungo e le corna belle. Pantera col TH, l'IRP di Infracomitalia, anche in cloud. Vi presenta... Ciao Alessandro, volevo dirti, sai che mi fa proprio ridere quando vi sento criticare i servizi segreti del Belgio, quando noi abbiamo da decenni e decenni mafiosi che stanno a casa loro, che non vengono arrestati, con quartieri che difendono i boss e queste robe qui. E cosa ti devo dire? Adesso ormai gli italiani ti fanno anche pagare il canone in bolletta, andiamo sempre più bene, invece di prendere i soldi dei politici li prendono soltanto dai cittadini italiani per un televisore. Italia, Italia, la nuova America! La nuova America per tutti, tranne che per gli italiani. Alino, lo spettacolo è il 9 di aprile a San Siro, no? Il 10 a Milano, dove vi sistemeremo, vi daremo l'anticipo di Coppa Italia. Ciao Big Wall! E buongiorno Milani, ritorno di Platoon, ma spero che sarà su Facebook, eh? Olà, grazie, grazie Platoon, adoro Manera. Oh là là! È la nostra Marie-Françoise che ci segue da Monte Carlo, Monte Carlo, ma è vero, Vincino, è tutto vero. E torna al mito di Platoon, non è proprio, è proprio Platone, Platoon. È un po', sì, facciamo Platone con Leonardo Manera. Saresti invitato, sareste invitati, ma siamo a Milano, il 10 aprile, al Manzoni. Niente, sono morti. Siamo a Roma. Divertitevi, va bene. Allora. Bertolaso è un caso quasi umano. Pare che Berlusconi l'abbia chiamato ad Arcore, gli abbia detto: qua bisogna cambiare registro, fai troppe gaffe. L'ultima è questa. Bertolaso, chi vota sua moglie? Sua moglie la vota? Questa è una bella domanda. Non è che sua moglie vota Marchini, no? No, non credo. Ma se non, secondo lei, no, o Giachetti, no, no. Ma quello potrebbe darsi, potrebbe mia moglie potrebbe ha, diciamo, tendenze di quel tipo, però... Di quale, di sinistra? Sì, esatto. Ma no. Vabbè, ma è straordinario, Bertolaso. Io ho una teoria, ragazzi, ho una teoria, l'ho elaborata, ci ho pensato. E siccome Bertolaso è intelligente, perché è intelligente? Perché, stai, perché Chiara hai fatto... No, ho detto no. Non lo so, se così come Bertolaso è un uomo intelligente, io sono convinto che lui non voleva fare quello che sta facendo, ma non si può dire no a Berlusconi, come non si può dire no a Renzi, perché siamo in un paese fatto così, e allora ha detto: io ti dico di sì, vengo lì mi muovo come l'elefante nella cristalleria, distruggo tutto, così mi dirai a un certo punto: Bertolaso, guarda, no, non ce la si, non c'è, cioè sta facendo una roba molto intelligente, perché raffinatissima. Ma Vincino, guarda, non ci credi? Ma Chiara, ma io ci credo benissimo. Ma Vincino, non è possibile che inanelli una serie di... Ma lui è così, dai. Ma non, no, è, dai, che... ma no, ma dai, sì, no. È nature. Ma questo è perché, scusa, se uno ha la moglie di sinistra, che è colpa sua? Non è che... No, infatti. Però, boh, non lo so. Ma mica è 5 Stelle, no, è di sinistra. Che c'hai adesso, sì. 5 Stelle? Non c'ho niente. Non c'è niente. No. Vuoi dire qualcosa ai tuoi amici 5 Stelle? Da un non po' voglio che... dire niente, stamattina guarda, mi astengo, guarda, non, hai già litigato con la Chiara Geloni, basta. Mi dispiace perché, no. però devo dire che quello, no, hai detto un errore, quando hai detto, cioè, non era una politica, non era una cosa, questa era una cosa, come dire, l'hai fatta arrabbiare. No, non torniamo su questo. Non è la prima, non ha preso la prima così di confermare, no, una, no, vabbè, ma dai, non andiamo indietro, andiamo avanti, dai, vabbè. Bertolaso è là, lui è così, è fatto così, non... è fatto così. Poi secondo me non sarebbe malissimo come gestore della città, renderebbe anche il Tevere balneabile, cioè... No, il Tevere, appena c'è un disastro all'Atac lui sarebbe sul posto, dappertutto, sì, sul Tevere, esattamente, no, sarebbe dappertutto a cercare di risolvere ogni buca, vedrebbe, sì, Bertolaso, sì, sì, là con la sua bandierina sulla buca. Non lo so, Chiara, io ci arriva anche un Chiara Geloni for President, non capisco. Vai. Però Chiara, non so, è una teoria troppo elaborata, la mia su Bertolaso. Guarda, effettivamente io devo dirti la verità, no? Forse ne ho un po' meno stima di te, perché quando è venuto fuori questo nome Bertolaso mi sono detta: ma sono pazzi. Ma no, io non è che lo stimo politicamente, non è stupido, insomma, cioè, voglio dire, anche stupido non lo direi mai, ma non è che anche questa questione dell'Aquila, questa gestione dei disastri, Sì, grande presenza, grande, grande attivismo, ma non grande efficacia. No, no, cioè, capito, ma sta facendo, ma sta facendo una serie di dichiarazioni che sembrano fatte, ma neanche da Tafazzi. Cioè, è una cosa nuova. Sì, sì, questa è una novità. Cioè, è una... Ora, è vero che spesso quando metti, adesso Vincino si arrabbia, ma quando metti un non politico sotto i riflettori del circuito mediatico della politica, può risultare un po' impattato. È un non no? politico, è quello il problema. Però effettivamente questa situazione sembra un po' a perdere, il famoso complotto di cui parlava la senatrice dei 5 Stelle. Complotto di pentastellata memoria, ma non citare il 5 Stelle che Vincino lo stai tranquillo. Non politici, cioè, Chiara divide il mondo in politici e non politici. Ma c'è un'ossessione, cioè, io sono in conflitto di interesse perché sono politico da sempre, no? E non politico da sempre, assolutamente. Secondo me c'è proprio un'ossessione per Chiara Geloni. Io che ho visto il Belice di persona, perché io il giorno io del terremoto l'Emilia Romagna, Vincino, io ho visto l'Emilia Romagna, io ho visto Vasco Errani affrontare un terremoto, non l'ha affrontato come Belice, lui ha visto che è successo in Belice, che il è successo? Belice vuol dire questo, che io la mattina ero là con la cosa della Croce Rossa e per un mese questi hanno dormito sulle tende al freddo, hanno mangiato schifezze e ancora dopo 40 anni, un disastro immane. Infatti diamo ancora soldi per il Belice. Devo dire questa cosa. Così, mentre invece all'Aquila, tre giorni dopo, stavano tutti. È arrivato Bertolaso, tutto a posto. Poi scusa, l'Emilia Romagna era un'altra cosa, hanno avuto i morti, la cosa, il disastro dell'Aquila, dai, non è che non mettere a paragone l'Emilia Romagna. Allora, però, aspetta, devo dire questa cosa, non c'è neanche tempo per parlare dell'attico di Bertone, ma va bene, parlerò nella rassegna stampa. Le multe, ho preso un'altra multa, vabbè, però adesso non possiamo farci tutti carico delle tue multe. No, non ti preoccupare, nessuno, pago io a mia saputissima. Vado oggi al tabaccaio e verserò i miei ennesimi 28,70 euro. Però Pisapia, hai deciso di fare cassa sui cittadini prima di andartene, tanto poi i cocci sono degli altri, nessuno si può lamentare, non ti ricandidi, va bene, lo accetto, però porca miseria, devi anche accettare che la gente sia un po' incazzata, perché non si può mandare i vigili così pam pam pam pam subito a beccare le multe appena uno mette 5 minuti di vietro di sosta. Vabbè, ho fatto la mia sparata, l'ha fatta anche Maria Stella Gelmini, che si è arrabbiata, è comparsa in un video con un foglietto, una multa, eccolo qua. 10.000 multe al giorno, tutto questo è inaccettabile. Noi vogliamo un traffico fluidificato e gli autovelox solo dove c'è veramente bisogno. Caro Vincino, ha fatto questo video contro le multe, la Gelmini. In divieto di sosta. Sì, e dietro di lei c'erano tre macchine in divieto di sosta. C'è proprio tre macchine in divieto di sosta, palese, lampante, vergognoso. Scusa, lei, basta multe. 28,70 euro, che è cosa? Poco, qua a Roma sono il doppio minimo, divieto di sosta. A Roma sono 70 euro, ma tanto non le pagate poi, ma che tanto non le pagate, vabbè, chiaro che non le paghiamo, d'accordo, ma però 28 euro come dire, ringraziate di avere Pisapia, no, un sindaco così delicato, porca miseria, tanto non le pagate, d'accordo, sì, allora datemela dei 300 euro, tanto non pago, chi se ne frega, pago coi soldi del Monopoli, oggi vado dal tabacco Caio, le do 28,70 euro coi soldi del Monopoli, perché mi sono rotto le balle di prendere una multa tutte le volte che metto la macchina in religioso divieto di sosta. Ma porca miseria, non si può neanche parcheggiare più in divieto di sosta a Milano, è insopportabile, come direbbe Vincino sta cosa. Vabbè, ho finito la mia sparata, devo salutarvi, caro Vincino, cara Chiara Geloni, passate un buon weekend, alla prossima. E io pago. Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it vi presenta 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Amici, forza, che sono le 7:18 minuti in punto e si conclude oggi la 152esima settimana decisiva per l'abolizione delle province. Anche questa non ha portato il risultato